Radio Virus presenta Rosa di Sera. Da tavolo transfemminista queer Macao, Carlizia, la vocina che ti vizia, legge favole per diventare di tutti i colori che volete. Me la racconti, di Adela Turin. Nessuno nel palazzo di Re Valerio si ricordava più della prima guerra. Né i ministri, né i consiglieri, né i segretari, né gli osservatori, né i direttori, né i relatori, né gli strateghi, né i diplomatici. E nemmeno i generali, i colonnelli, i sergenti, i maggiori, né i tenenti. E nemmeno Terenzio Furiosi, il più vecchio soldato, cucito e ricucito, occhio di vetro, gamba di legno, mano di gancio. Perché dopo la prima guerra c'era stata la seconda, poi la terza, la quarta, la quinta. E poi la ventesima e la ventunesima, che durava ancora. E nessuno nel palazzo di Re Valerio si ricordava più delle pesche, né dei passeri, né dei gatti soriani, né della marmellata di mirtilli, né dei ravanelli, né delle lenzuola distese ad asciugare sui prati verdi. Re Valerio, d'altronde, faceva piani entusiastici per la ventiduesima guerra. Non rimarrà in piedi neanche un albero, non ci sarà più neanche un filo d'erba, neanche un trifoglio o una cavalletta, annunciava. Abbiamo l'arma definitiva, la fumigazione infernale, il raggio funesto, il gas insalubre, il cannone fatale. Generali e ministri, segretari e consiglieri applaudivano entusiasti. Bisogna dire che Re Valerio era, nell'opinione di tutti, sufficientemente furioso, balzano, smanioso, imprecatore, bizzoso, bisbetico, scorbutico, brontolone e anche sufficientemente furbo, imbroglione, volpone, malevolo, scaltro e sgarbato per essere considerato un grande monarca e un padre infallibile. Il palazzo era in cima a una collina e Re Valerio occupava il ventesimo piano. Al dodicesimo c'erano gli informatori e i giornalisti. Al decimo i ministri e i segretari. Al quindicesimo i generali e i colonnelli. Al sesto abitavano Teofrasto, Nefasto e Funesto, i tre maghi amici per la pelle di Re Valerio, che avevano ciascuno una scatola magica. La scatola di Teofrasto era verde e oro e conservava tutte le parole che il re diceva. La scatola di Nefasto era rossa e argento e faceva sentire lontanissima, al di là delle colline e dei campi di battaglia, la voce di Re Valerio senza che si perdesse una sillaba. La scatola di Funesto era trasparente e permetteva al Re Valerio di vedere nell'istante stesso quello che succedeva negli angoli più remoti del suo regno. Al 50° e ultimo piano del palazzo, insieme a 174 vedove, orfanelle e orfanelli di guerra, vivevano la regina Delfina e la principessa Melina. Il palazzo non aveva balconi né terrazze e dal lunedì al venerdì pallottole, pallettoni e altri proiettili colpivano i muri e le finestre. Per cambiare l'aria, vuotare i posacenere e scuotere i tappeti, si aspettava la tregua del sabato e della domenica. la tregua era stata decretata da un bisnonno di Re Valerio che in tempi felici in cui c'erano pesci nei fiumi amava pescare senza rischio di farsi impallinare. La vita nel palazzo era noiosa. Uscita da una scatola, la voce di Teofrasto dava in tutto il palazzo le notizie dal fronte. Ma non arrivava alla cucina, dove Delfina e Melina si rifugiavano per dimenticare la guerra. Melina giocava con le scatole di conserva che riempivano gli armadi e guardava incuriosita le etichette. «Che cos'è questa cosa rossa, mamma?» chiedeva. «Una mela, cara», rispondeva Delfina. Ma Melina insisteva. «Ma che cos'è una mela?» Delfina tentava di spiegarglielo. «Ma provate voi a spiegare che cos'è una mela a una bambina che non ha mai visto né un'albicocca, né una pera, né una prugna, né una fragola. Insomma, niente di quello che cresce sugli alberi o nei cespugli». Nel palazzo, a ore fisse, le scatole di conserva si aprivano da sole. I piatti apparivano sull'immenso tavolo della sala da pranzo e da soli si riempivano, sempre nello stesso modo, di una fetta di prosciutto sbiadito, una montagna di piselli verde scuro e un triangolino di formaggio argentato. Delfina, Melina e le 174 vedove, orfanelle e orfanelli mangiavano senza appetito e tornavano di corsa a rifugiarsi in cucina per scappare dalla voce che dava le notizie. Intanto i piatti si lavavano da soli e tornavano da soli a impilarsi negli armadi. Quando, dopo la rude giornata al 20° piano, Re Valerio saliva a casa la sera, era in genere molto allegro. Sulla grande tavola, in suo onore, la bottiglia del vino si apriva da sola e riempiva i bicchieri. Melina guardava incuriosita l'etichetta e chiedeva: «Mamma, che cos'è?» E Delfina tentava di rispondere: «Ma provateci voi a spiegare che cos'è un grappolo d'uva a una bambina che non ha mai visto né le mele, né i fichi, né le lattughe, né le violette, né niente di quello che cresce nei campi e nei giardini». Dopo cena, Re Valerio raccontava entusiasta alla regina la sua giornata di guerra e Delfina ascoltava afflitta e un po' distratta. Melina, qualche volta, a sentir parlare di morti e feriti, si metteva a piangere. Re Valerio constatava desolato una volta di più la sua sfortuna. «Doveva toccare proprio a me», diceva, «di avere una bambina. Ah, se avessi avuto un figlio maschio!» E ordinava ringhioso: «Portate quella femminuccia piagnucolosa a dormire!» Melina, nel suo lettino automatico che si scaldava da solo quando lei entrava, tentava, prima di addormentarsi, di immaginare le mele rosse sugli alberi verdi, ma non ci riusciva mai. La domenica c'era la tregua e la scatola delle notizie taceva. Re Valerio se ne stava in casa, nella sua elegante veste da camera viola e verde, con le pantofole di coccodrillo. Melina, che giocava per terra con i suoi soldatini di plastica, chiedeva: «Che cos'è un coccodrillo, papà?» Re Valerio mugugnava: «Ma sta zitta, non mi seccare!» Ma in realtà non avrebbe saputo da dove incominciare a rispondere. Di coccodrilli non ne aveva mai visti nemmeno lui. E poi, provateci voi a spiegare che cos'è un coccodrillo a una bambina che non ha mai visto né un cane, né un gatto, né un coniglio, né una farfalla, e nemmeno una lucertola. Re Valerio, la domenica, portava a casa la scatola verde di Teofrasto e ascoltava soddisfatto le sue parole della settimana. Delfina e Melina, rifugiate in cucina, giocavano a infilare lunghe collane di perle o coralli. E Delfina provava, senza successo, a spiegare a Melina che cos'erano un'ostrica o un corallo. Ma Melina non aveva mai visto neanche un pesciolino rosso, perché l'ultimo che andava e veniva in una vaschetta rotonda era morto prima della sua nascita. Quando Melina compì 4 anni, Delfina pensò che era ora di insegnarle a leggere. Cercò per vari giorni nella grande libreria del palazzo un libro che non fosse una storia di guerra o un trattato di balistica o un manuale di strategia. Ma non ne trovò nemmeno uno. Fu così che decise di scriverlo lei stessa. Incominciò scrivendo piccole storie. Erano storie che parlavano di cose che aveva visto molti, molti anni prima, fra la terza e la quarta guerra, nel palazzo di suo padre, il re Abbondio. Parlavano di fiori nel giardino e di gatti che dormivano sulle poltrone, di mele che diventavano rosse sugli alberi, di api che facevano il miele e di carote che crescevano sottoterra. E perché Melina capisse meglio, Delfina di ogni cosa faceva un disegno. Il libro cresceva pagina per pagina, le storie diventavano più lunghe e le immagini più belle. Re Valerio, arrivando la sera, con la testa piena di spari di cannone, trovava la regina e la principessa in cucina davanti al libro, felici. E tuonava: «Delfina, perché riempi la testa della bambina con tutte quelle storie fantastiche? Sai bene che niente di quello di cui parli esiste. Non voglio più sentire queste insensatezze!» Ma Delfina e Melina disubbidivano e continuavano a parlare e a ridere, a scrivere e a disegnare sul grande libro. Di pomeriggio la cucina si riempiva. Le vedove con i loro bambini, gli orfanelli e le orfanelle, ascoltavano meravigliati le incredibili, fantastiche storie di grano turco, farina e pane, di uccelli migratori e marmellate di susine. E i bambini provavano anche loro a leggere e a disegnare nel grande libro di Delfina. Re Valerio era ogni giorno più scontento. Il libro cresceva. I bambini sapevano leggere e si raccontavano le storie tra loro. Re Valerio tuonava: «Butterò via quel maledetto libro di sciocchezze!» Delfina e Melina erano un po' inquiete. E se lo facesse davvero? Una sera Re Valerio arrivò di umore eccellente. Era scoppiata una nuova guerra che prometteva di essere la più lunga e la più micidiale di tutte, uno splendido finimondo. E il palazzo non era il posto più adatto a una regina che scriveva storie stolte. e a tutte quelle donne e a quei bambini e a una principessina paurosa e piagnucolosa. Lo spettacolo di tanta incoscienza avrebbe demoralizzato le truppe. E poi c'era quel maledetto libro. Re Valerio non vedeva l'ora di non averlo più tra i piedi. Così decise che la regina, la principessina, le vedove e gli orfanelli sarebbero partiti verso il castello di Re Abbondio, il più lontano dai campi di battaglia. La notizia fu accolta con gioia. Delfina, Melina e i bambini fecero un pacco con ciascuno dei volumi del libro, riempirono bauli di carta, matite colorate, pennarelli, acquerelli, barattoli di colla e gomme e si prepararono a partire. Il sabato mattina, con un bel tempo tiepido di primavera, Delfina, Melina, le vedove e gli orfanelli salirono su 5 carrozze che senza cavalli né buoi attraversarono come lampi le colline bruciacchiate e i campi pelati attorno al palazzo. Nel pomeriggio erano già lontani dal palazzo, ma le colline erano sempre pelate e grigie, come quelle che si vedevano attraverso i vetri blindati del 50° piano. E su ogni cocuzzolo c'erano un castello o un palazzo, più o meno diroccato, più o meno sgangherato. Al tramonto, stanchi, decisero di fermarsi a riposare in uno di quei castelli abbandonati e mezzo sfasciati dalla guerra. Era un castello grande e bello, e a parte i muri di cinta, piuttosto in buono stato. C'erano tante camere, tanti letti, una grande tavola di legno, un immenso camino e della legna. C'era una vera cucina con fornelli e pentole, sacchi di farina e barattoli di marmellata. C'era una dispensa piena di patate, castagne, mele e formaggi. E poi c'era un grande giardino con peschi e aranci in fiore, e uccelli e farfalle, e bruchi e armadilli e trifogli e violette, e una vasca con ninfee e pesci e rane e papere. E l'edera, che faceva il giro delle porte e delle finestre, e api e vespe, e lucertole pigre, e formiche indaffarate, e una biscia, e un cane. Melina era pazza di gioia, e anche Delfina, le vedove e gli orfanelli. La mattina dopo decisero, tutti di comune accordo, di stare ancora un giorno nel castello prima di riprendere la strada. Fecero il pane nel grande forno e se lo mangiarono con il formaggio, contentissimi. Ma neanche il giorno dopo riuscirono a decidersi a partire. Visitando il castello, avevano scoperto nel torrione un pianoforte, una spinetta e varie chitarre. E in una piccola stanza, libri di poesie e dizionari. E un gatto che dormiva su una seggiola, e un mazzo di carte da gioco, e degli scacchi. E correndo nel parco del castello, una serra piena di fiori e una mucca e un vitellino in un praticello. E neanche il giorno dopo, riuscirono a decidersi a partire. Avevano trovato un cortiletto con galline, pulcini e tante uova, e Delfina provò a fare una torta immensa per cena. E neanche il giorno dopo, riuscirono a decidersi a partire. Delfina tentò di decifrare le partiture e di suonare il pianoforte. E neanche il giorno dopo, riuscirono a decidersi a partire. Avevano scoperto un piccolo orto e si erano messi a togliere le erbacce e a raccogliere le zucche e l'insalata pasqualina. E il giorno dopo ancora, Delfina propose di scaricare il libro e qualche matita e di giocare un po'. Così si vide che non sarebbero mai più partiti. Per un po' di tempo, qualche mese o qualche anno, si sentì debole e lontano il rumore dei cannoni. La sera ogni tanto, mentre suonavano le chitarre e cantavano sul terrazzo del castello, vedevano in lontananza i fuochi della guerra. E nei giorni trasparenti dell'autunno videro qualche volta fumare una collina all'orizzonte, Tanto tempo è passato da allora. Ora c'è un villaggio attorno al castello. Solo qualche storico sa delle guerre di Re Valerio. Tutti invece conoscono il nome di Delfina, l'autrice leggendaria del bel libro illustrato che si mostra ancora ai bambini, voltando con cura le grandi pagine un po' ingiallite. La nipote della nipote della nipote di Delfina è editrice e i libri che pubblica sono venduti nel mondo intero. È in uno di questi, Considerazioni sulle 100 micidiali guerre maschili, che abbiamo trovato la storia di Melina, la principessina che non aveva mai visto una mela. Avete ascoltato Rosa di Sera, favole per diventare di tutti i colori che volete. Per contattarci scrivete a rosadisera@autoproduzioni.net. Rosa di Sera, su Radio Virus, il lunedì e il giovedì alle 21.